Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buona giornata, benvenuti da Deborah Rosciani ad una nuova puntata di Salva Danaio. Allora, prima di introdurvi il tema di oggi, volevo rassicurare gli ascoltatori interessati al tema Parmalat, alla sentenza di condanna su Calisto Tanzi. Ne abbiamo parlato ieri a lungo, dopo quello che è successo al tribunale appunto di Parma. Stamattina lo avete sentito poco fa nel nostro giornale radio. E a tutti gli ascoltatori interessati ai risarcimenti, ovviamente ad azionisti ed obbligazionisti del colosso di Collecchio, volevo, siccome questo è un tema atipico di Salva Danaio, nella fase più acuta del post-crack abbiamo dedicato decine di trasmissioni a quell'argomento per capire come tutte le persone rimaste coinvolte in quella che è stata una vera e propria truffa potessero in qualche maniera essere risarciti. Allora, noi ci ritorneremo su questo argomento lunedì. Abbiamo deciso di non farlo oggi, ma lunedì prossimo, proprio per mettere in piedi una trasmissione concreta che facesse capire a tutti in che cosa consiste, cosa spiega il dispositivo della sentenza, appunto anche di condanna di ieri ai danni di Calisto Tanzi. Avete sentito l'avvocato Anna Campilli, che è stata ospite del nostro radiogiornale. Lunedì sarà con noi a Salva Danaio, insieme ad altri appunto rappresentanti anche di associazioni dei consumatori. E quindi da lunedì prossimo cercheremo di capire quale tasso di risarcimento fino a questo punto hanno ottenuto i risparmiatori rimasti intrappolati nella truffa di Collecchio e cosa possono fare quelli che invece hanno avuto un marginalissimo tasso di risarcimento, come per esempio i vecchi azionisti Parmalat. Siccome c'è stata anche la novità nei giorni scorsi di Alitalia, è arrivato finalmente sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento appunto che stabilisce il tasso di conversione dei vecchi obbligazionisti dei Mengozzi Bond in nuovi titoli di Stato, e allora metteremo nella puntata di lunedì anche questo tema, per cui ve lo preannuncio con diversi giorni di anticipo: lunedì appuntamento con Parmalat e Alitalia. Andiamo invece al tema di oggi. Salva Danaio, lo sapete bene, è una trasmissione che si occupa di risparmio, di gestione finanziaria delle famiglie oltre che di consumi, e visto che siamo in dicembre, come immaginerete, dedicheremo qualche puntata anche ad un bilancio di fine anno su molti aspetti. Oggi vogliamo dedicare la nostra puntata alla figura del promotore finanziario. Allora, ci sono 59.000 professionisti della consulenza alle famiglie in Italia, 59.000 promotori finanziari iscritti all'albo, poi in realtà le cifre sono diverse e ve le racconteremo nel corso della trasmissione. Volevamo capire oggi se questo è un momento dell'anno in cui vi fate una chiacchierata con il vostro promotore, con il consulente che vi segue, per capire insomma se quest'anno anche ha fatto un buon lavoro, se vi potete ritenere soddisfatti del suo lavoro, visto che i mesi che abbiamo passato sono stati mesi in cui le incertezze per molte famiglie si sono moltiplicate a dismisura. Allora, ritenete di aver avuto una buona gestione del vostro risparmio da parte del vostro promotore? Ci piacerebbe appunto che ce lo raccontaste all'800, che ce lo raccontiate, stamattina non ci becco neanche con i verbi, all'800240024, perché noi oggi vorremmo commentare le vostre esperienze e confrontarle anche magari con quelle di chi fa scelte molto differenti, perché c'è chi è l'irriducibile della gestione delle proprie finanze in maniera fai da te. Noi tra l'altro stamattina abbiamo voluto parlare di questo argomento perché in questi giorni è partita anche un'iniziativa che ha stimolato un po' la nostra riflessione da parte di una delle maggiori reti di consulenza italiana, una maxi azione di formazione che porterà da qui ai prossimi 3 anni all'inserimento su tutto il territorio nazionale di 700 professionisti del risparmio. E allora, che segnale è questo? Perché non è che non ci debba interessare la modalità con cui le reti di promotori finanziari formano i propri consulenti, che poi naturalmente ci danno un indirizzo di risparmio e di gestione delle nostre finanze. Allora, noi stamattina parleremo di tutto questo con intanto il presidente dell'Associazione Nazionale Promotori Finanziari, Elio Conti Nibali. Presidente, buongiorno e grazie di essere ritornato a Salva Danaio, buona giornata. Buongiorno, grazie a lei. Stamattina ha sentito la patata in bocca, non riesco neanche a parlare, oltre che un mal di gola che mi porto dietro da tutta la settimana. Saluto poi Antonello Piancastelli, responsabile della direzione rete di Banca Fideuram. Buongiorno, perché quando ho parlato prima di una delle maggiori reti di consulenza italiane che stanno intraprendendo questa maxi azione di formazione e poi reclutamento per certi versi anche di promotori finanziari, è proprio Banca Fideuram che lo farà, anzi che ha già iniziato. Quindi, dottor Piancastelli, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a lei, buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io volevo anche sgombrare il campo da un altro equivoco stamattina. Insomma, ho iniziato facendo questo e devo concludere la trasmissione evidentemente sgombrando il campo da tutti i possibili equivoci. So già che ci scriverà qualcuno, visto che ci sono molti promotori finanziari e consulenti finanziari che ci ascoltano. Questo ci fa naturalmente piacere, perché evidentemente reputano questo il microfono di Salva Danaio, insomma, un microfono autorevole e attendibile anche per tutte le notizie che raccontiamo e spieghiamo. Quelli che ci ascoltano, appunto, forse qualcuno dirà: ma insomma, allora avete invitato due rappresentanti di Banca Fideuram, ma che senso ha? Perché anche il presidente di ANASF, Elio Continibali, è un promotore finanziario di questa banca. Io, per onestà intellettuale, perché il presidente Continibali lo conosco, so che tutte le volte che è necessario parlare di ANASF e di promotori finanziari, lui si toglie la casacca di Banca Fideuram e indossa quella di presidente dell'ANASF. Quindi questa mattina ho, per parlare anche della realtà dei promotori finanziari, necessariamente dovuto chiamare anche il presidente dell'organizzazione, e quindi oggi si, appunto, vestirà solo ed esclusivamente come presidente dell'ANASF. Nulla c'entra con il suo lavoro, appunto, in Banca Fideuram. E quindi questo per dovere, appunto, di chiarezza nei confronti di chi ci ascolta. Allora, il tema però è quello della consulenza. Ritenete che in quest'anno, anche ancora di grande difficoltà, di grandi oscillazioni dei mercati finanziari, il vostro promotore vi abbia seguito in maniera soddisfacente? Vi invito ancora a raccontarcelo all'800240024, oppure scriveteci, se vorrete, alle 349-238-6666. Rapidissimamente la borsa questa mattina, perché già ho consumato molti dei minuti a mia disposizione in questa prima fetta di Salva Danaio. Borsa un po' incerte, con l'unica eccezione di Francoforte, che invece ormai è positiva da stamattina per oltre mezzo punto percentuale e mantiene questo guadagno. Gli altri listini sono tutti sulla parità: Parigi, Londra, anche Milano. Milano leggermente negativa, meno 0,13%. Sono tornate le vendite molto forti su tutti i titoli bancari. La Popolare di Milano perde 2 punti, Fondiaria meno 1,83%, ribasso di oltre un punto per Unipol, per il Banco Popolare anche Ansaldo, UbiBanca meno 0,9%, Azimut meno 0,9%, Mediobanca meno 0,9%, Mediolanum, Intesa, Unicredit meno 0,9%, STM meno 0,9%. Resistono nel territorio positivo, invece, anzi, hanno anche un buon guadagno: Bulgari più 2,6%, Prismian più 2,46%, più 2 per A2A e Lottomatica. Euro su dollaro 1,3249. Questa è la borsa. Adesso invece andiamo al tema di questa mattina. Parleremo del rapporto nostro e della nostra famiglia e del nostro risparmio con il nostro, se ce l'abbiamo, promotore finanziario. La platea di strumenti finanziari proposti dal mercato è vasta e molti risparmiatori, per scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze, si affidano ai promotori finanziari, vale a dire a dei professionisti del risparmio che per conto di una società di intermediazione immobiliare o in veste di consulenti indipendenti collocano prodotti e servizi di investimento alla propria clientela. Compito del promotore è dunque quello di offrire consigli di investimento finalizzati alla scelta dei prodotti e dei servizi finanziari adatti alle richieste del cliente. La prima cosa da fare, quindi, è analizzare le esigenze di investimento e, in base a queste, proporre le soluzioni adeguate e, una volta compiuta la scelta, consegnare i documenti previsti. Con il passare del tempo, inoltre, è bene aggiornare periodicamente l'analisi della situazione finanziaria del cliente e suggerire eventualmente le opportune modifiche da fare. Ecco perché la scelta della persona alla quale affidare la gestione del proprio portafogli va effettuata in maniera accurata e prendendosi tutto il tempo necessario. 800240024, numero verde per le vostre riflessioni. Vedo che stanno già arrivando considerazioni di natura differente. Vedo che le persone che si stanno prenotando al centralino per intervenire vorrebbero dare un buon giudizio del consulente che ha scelto, appunto, di seguirli. Quelli che ci scrivono un po' più timidi, con l'SMS è generalmente più facile, essere molto più cattivi anche nella natura dei messaggi. C'è Massimo, un consulente indipendente, ovviamente anche era chiaro che il tema interessasse molto anche a loro. Dice che la formazione da parte delle reti nella generalità è mediamente scarsa, tranne alcune pregiate eccezioni quali proprio Banca Fideuram. Ma manco l'avessimo cercato questo messaggio il primo che sono andata a leggere. Prima di sentire Piancastelli, però, volevo andare proprio al presidente Elio Continibali per farci raccontare anche quest'altra parte della medaglia. Presidente, è stato un anno difficile per la consulenza dei promotori nei confronti delle famiglie che, oltre chiaramente a dover essere bene indirizzate per la gestione del proprio risparmio, forse negli ultimi anni hanno dovuto più che altro essere molto rassicurate. Sì, Allora, io direi sicuramente è stato un anno difficile, come sono stati difficili veramente anche gli ultimi anni che abbiamo vissuto, e non riguarda questo soltanto gli enti operatori finanziari, credo che riguardi in generale tutti i risparmiatori, ma riguarda in particolare tutti i cittadini. È un momento sicuramente difficile, una crisi, non è soltanto una crisi finanziaria, è una crisi economica e globale, sappiamo tutto questo, quindi partendo da lì nessuno poteva aspettarsi miracoli, però sicuramente è necessario che ognuno faccia la propria parte. Allora io dico questo, lo dico sulla base di numeri, e i numeri credo che siano il miglior riscontro quando si vuole raccontare qualcosa. I numeri dicono che le attività dei promotori finanziari hanno tutti un segno positivo, hanno un segno positivo le attività di raccolta, hanno un segno positivo i numeri che fanno riferimento alla diversificazione degli investimenti, hanno un segno positivo i numeri che riguardano la raccolta nel risparmio gestito, e quindi tutto questo significa qualcosa, significa quindi che il mercato per i promotori finanziari è un mercato vivo, significa che i clienti ci sono. Un altro cosa molto importante è che non diminuiscono, ma tendono, anche se marginalmente, ad aumentare il numero dei clienti che si affidano alle reti dei promotori finanziari. Questi sono numeri. Poi ci sono valutazioni da fare sui numeri. Le valutazioni che non faccio io, non le fa l'ANAS, ma le fanno primarie società indipendenti che fanno ricerca di mercato, continuano ad attestare un livello di soddisfazione dei clienti, dei risparmiatori che si affidano alle reti dei promotori finanziari, sicuramente superiore rispetto ad altri canali distributivi. Quindi nell'insieme, secondo me, valutando soltanto il dato, dico che non possiamo essere assolutamente scontenti, tutt'altro, del valore che la nostra attività sta dando al mercato. Sicuramente c'è tanto da fare, c'è tanto da migliorare, però in un momento così difficile avere contezza di numeri e di valutazioni di questi numeri che vanno in una certa direzione mi confortano e mi fanno dire che la nostra è un'attività che ha un valore, che viene apprezzata, che sicuramente può migliorare e sulla quale, ecco, un altro aspetto molto importante, è giusto ed è necessario investire. Ecco, è proprio questo credo che sia lo spirito dell'iniziativa intrapresa da Banca Fideuram. Antonello Piancastelli è una figura professionale che non ha, anche grazie ai passi avanti fatti negli ultimi anni in termini di qualificazione professionale, sicuramente ancora un bel po' di percorso da fare, se non altro perché cambiano le esigenze, cambia tutto quello che ci circonda, cambiano le, come dire, cambia la congiuntura economica in continuazione, per cui anche per voi è sempre una lotta, immagino, con il tempo, per anche cambiano i prodotti stessi finanziari che vengono ideati e creati dalle società appunto di gestione, e quindi e chiaramente anche la professionalità deve andare di pari passo a tutto ciò che è il cambiamento continuo. E quindi in che cosa consiste questa vostra iniziativa di sa che non riesco neanche a farla rispondere, per la verità, vedo che il tempo mi è scappato di mano stamattina, a Piancastelli, allora per farle fare un discorso abbastanza articolato e completo la chiedo un attimino di pazienza perché andiamo direttamente alla seconda parte della trasmissione, ma forse magari in 10 secondi riusciamo a sentire la prima testimonianza di un nostro ascoltatore. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, stavo ascoltando assiduamente quello che stava dicendo il dottore. Allora, io faccio parte della schiera delle persone che si sono affidate ormai da anni ai promotori finanziari del gruppo che ha citato poc'anzi. Ah, vabbè. E devo essere... Mamma mia, penseranno che abbiamo organizzato tutta Dante, stava pazienza. Vabbè, sono... vabbè, comunque non è vero. È decennale il rapporto, sì, anche se non è vero, infatti voi siete almeno super partes. Allora, devo dire la verità, io sto riscontrando... Paradossalmente negli ultimi anni una gestione veramente oculata e precisa e con un rapporto veramente molto stretto col mio promotore, che ha fatto sì di avere un ottimo guadagno a dir poco, nel senso una soddisfazione proprio di aver investito nel modo giusto al momento giusto. Ecco, io quindi non posso altro che elogiare l'operato, diciamo, del mio procuratore, come possa essere, penso, anche quello degli benissimo, altri. Benissimo, ecco, società. L'importante è che sia stato in grado di rispondere alle sue esigenze, Marco, poi a prescindere dal fatto che un portafoglio di investimenti è chiaro che poi deve crescere nel tempo perché ci deve proteggere il nostro risparmio, le esigenze finanziarie della nostra famiglia. l'importante è aver trovato appunto una corrispondenza fra i suoi interessi e il lavoro di questa figura professionale. Allora, oggi abbiamo deciso di parlare, di fare un punto di fine anno sulla gestione del nostro risparmio, se questo in particolar modo l'abbiamo affidato ai consigli e suggerimenti alla gestione di un promotore finanziario. Allora, Antonello Piancastelli, responsabile direzione rete di Banca Fideuram. C'è un ascoltatore che ci scrive: gentile signora Rosciani, la smettiamo di usare il termine reclutamento, sa di soldati che vengono mandati al macello. In nessun'altra realtà professionale si usa questo termine, che sa di venditori porta a porta. Massimo, promotore finanziario toscano e socio ANASF. L'abbiamo usata una sola volta, spero che non ce ne voglia l'ascoltatore. In realtà la vostra operazione è a metà fra il reclutamento e soprattutto la volontà di preparare al meglio queste professionalità. Però insomma, la creazione di 700 nuovi professionisti da immettere su questo mercato è un'operazione abbastanza importante. Come si svolge questa iniziativa? Sì, allora è vero, sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore, il termine reclutamento non è un bel termine in generale, potremmo usare termini migliori. In particolare per l'iniziativa in questione poi non è sicuramente l'aspetto più importante è l'aspetto di sviluppo professionale. Quello che vogliamo fare è creare 700 professionalità, 700 persone, 700 nuovi professionisti della consulenza finanziaria. Per farlo abbiamo fatto accordi con istituzioni accademiche per costruire un percorso di sviluppo professionale che abbia una parte accademica, appunto, quindi una parte di formazione, un master post universitario, e una parte invece di formazione sul campo per apprendere le basi concrete della professione di consulente finanziario all'interno di una rete di promotori tra le più rilevanti d'Italia. Ecco, ma avete avvertito che ci fosse un'esigenza di questo tipo più da parte dell'industria oppure da parte anche, per esempio, delle famiglie? Perché credo che ci sia stata anche la volontà di, come dire, trovare una coniugazione fra molte esigenze. È l'industria che ha bisogno di preparare sempre di più i consulenti? Sono le famiglie che chiedono dei consulenti sempre più preparati perché gli stessi risparmiatori diventano più esigenti ma anche più in grado di avere una, come dire, una trattativa, una dialettica più preparata? Ecco, dottor Piancastelli, in sostanza, quali sono le esigenze che si sono mosse? Allora, credo che sia una bella coincidenza di esigenze. In Italia sicuramente da parte dei clienti, da parte dei cittadini, c'è una crescente esigenza di consulenza finanziaria. Noi siamo un paese che risparmia moltissimo, siamo probabilmente il paese occidentale che risparmia di più, abbiamo il più basso tasso di indebitamento individuale. Sì, questo ci ha riconosciuto da tutti, sì. Esatto. Però siamo anche il paese occidentale che finalizza di meno il proprio risparmio. Siamo ultimi in Europa per percentuale di risparmio gestito. Noi teniamo i soldi sul conto corrente, una volta li tenevamo sotto il materasso. Tenere i soldi sul conto corrente significa non proteggere neanche il valore d'acquisto del proprio capitale. Quindi risparmiamo tanto, ma non siamo molto bravi a utilizzare il risparmio per raggiungere i nostri obiettivi. Per farlo meglio servono dei professionisti della consulenza che aiutino a fare esattamente questa operazione. E infatti, come diceva prima il presidente Conti Nibali, i clienti dei promotori finanziari sono mediamente, poi avremo sicuramente qualcuno che non lo è, ma mediamente sono più soddisfatti perché hanno un interlocutore che si interessa a loro, cerca di capire le loro esigenze per dargli delle soluzioni mirate. E certo, questo probabilmente è anche riconducibile al fatto che naturalmente anche nei periodi magari migliori di mercato ovviamente ci sono state anche delle reti molto aggressive che forse continuano anche ad esserlo, però diciamo che forse anche la crisi, ma magari questo Piancastelli me lo dica lei, ha modificato un po' anche l'atteggiamento del promotore. Adesso c'è ben poco da essere aggressivi, c'è molto meno l'atteggiamento che comunque probabilmente in passato c'era di voler vendere a tutti i costi i prodotti della propria casa mandante perché e magari scegli il prodotto che per il promotore era più remunerativo, ma adesso forse anche questo è un problema superato, visto che quasi tutte le reti di promotori finanziari possono vendere e distribuire appunto prodotti di più società di gestione del risparmio, di più case di investimento, per cui anche le reti stanno diventando in un certo qual modo, anche se sono riconducibili magari ad una banca, ma diventano sempre più indipendenti. Assolutamente. Oggi due sono gli aspetti più rilevanti. Il primo è che l'attenzione principale è al controllo del rischio. Questo è stato un po' guidato dalla normativa che ha fatto passi da gigante nel nostro paese e devo dire ha portato sia i clienti a saperlo, sia i professionisti ad attrezzarsi per aiutare i propri clienti a gestire oculatamente il rischio che hanno intenzione di correre e capire anche che cos'è il rischio anche di prodotti che tradizionalmente sembrano non essere rischiosi. La seconda tendenza, come diceva lei, è quella all'architettura aperta. Ormai praticamente tutte le reti italiane possono vendere i prodotti di qualunque SGR e non c'è incentivazione specifica sui prodotti dell'una rispetto a quelli di un'altra. Quindi sì, la neutralità del rispetto all'offerta di prodotti la darei abbastanza per scontata nelle reti di promotori così come nella consulenza indipendente. Cosa che per esempio comunque non avviene allo sportello, questo lo dobbiamo ricordare, per cui anche gli ascoltatori irriducibili del fai da te e che magari vanno in banca e perché proprio così per convinzione pregiudiziale, poi magari possono anche aver ragione se hanno avuto delle esperienze sfortunate, è chiaro che avranno un giudizio che è stato motivato da qualcosa, ma se per tutta una serie di motivi non vogliono affiancarsi ad un promotore finanziario e preferiscono il fai da te, ricordatevi che allo sportello è molto più facile invece che vi venga rifilato un prodotto che è il prodotto del momento per quella direzione commerciale che evidentemente viene spinto per qualche ragione. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre osservazioni. Sentirei Lorenzo da Padova adesso. Buongiorno, ma mi state facendo veramente fare una trasmissione pro promotore, io vorrei anche qualche voce critica. Possibile che nessuno di voi si sia mai trovato male, perché ci piacerebbe anche capire che cosa succede quando c'è un rapporto completamente insoddisfacente. Il rapporto fiduciario naturalmente viene a mancare, ma come si fa anche a rimuovere il vincolo evidentemente di natura commerciale se c'è tra cliente e consulente? Magari ce lo facciamo spiegare dal presidente Conti Nibali. Intanto Lorenzo. Sì, buongiorno a voi. Io volevo portare la mia esperienza personale. Sono felice utilizzatore del risparmio gestito. Anzi, non riuscirei ad immaginare nessun'altra forma di gestione in questo momento per la mia famiglia diversa da questo, anche perché sono conscio delle mie limitate conoscenze dei mercati e quindi non riuscirei a gestirlo al meglio. Lorenzo, lei che tipo di rapporto ha con il suo promotore? Nel senso, ogni quanto lo incontra, ogni quanto fate così un confronto su come ha gestito il suo risparmio questo promotore, in che maniera lo pungola, che cosa gli chiede? Quindi cerchiamo di dare anche qualche suggerimento a chi invece magari un rapporto con un promotore non l'ho mai avuto, per essere davvero costruttivi in questo rapporto. Ma guardi, io non so se è il consulente specifico, ma comunque vengo stimolato io, vengo contattato in certi momenti in cui i mercati sembrano preoccupare gli altri, in realtà mi viene fatto vedere che si potrebbe inserire qualcosina in più per acquisire qualche prodotto che è sceso di valore, e quindi circa un 4-5 volte l'anno almeno da parte sua mi contatta, io quando ho bisogno, ma quello che ho trovato ideale per me è la gestione diretta, quindi una banca che risponde anche fino alle 10 di sera o il consulente che lo trovi al telefonino anche fuori l'orario di lavoro normale. Benissimo, Lorenzo, quindi insomma un rapporto che è soddisfacente per questo ascoltatore, e chiaramente c'è anche chi ci scrive che invece non ha assolutamente un approccio di questo tipo, comunque un rapporto così positivo. Presidente Conti Nibali, come facciamo a capire se il nostro consulente, se il nostro promotore fa un buon lavoro per noi o non sta facendo un buon lavoro per noi, a prescindere dal fatto che possiamo evidentemente controllare, non lo so, il rendimento di un prodotto, ma è chiaro che non si può esaurire solo in questo il rapporto fiduciario con il promotore finanziario. Quali sono le domande che gli dobbiamo fare per valutare competenze, professionalità, l'adeguatezza a prendersi cura del risparmio della nostra famiglia? Sì, diciamo che se ci limitassimo soltanto a valutare la performance del prodotto, probabilmente banalizzeremmo anche un rapporto che invece, se è un rapporto professionale, deve andare sicuramente oltre. Indubbiamente alla base di tutto è il rapporto tra un professionista, qualsiasi sia l'attività specifica, e un cliente, in questo caso il risparmiatore, ci deve essere una conoscenza approfondita appunto delle esigenze del cliente, quindi da là bisogna partire. Il lavoro si fa bene, si fa all'inizio secondo me, quando si riesce veramente a far capire al proprio interlocutore, al risparmiatore, che è necessario parlare, che è necessario raccontare, che è necessario mettere sul tavolo sicuramente quelli che sono i propri risparmi, ma sicuramente le esigenze di investimento, e allora è lì che si capisce la qualità del professionista, che riesce a cogliere effettivamente quelli che sono gli obiettivi importanti e lavora, pianifica, realizza un piano nel tempo assieme al risparmiatore, chiaramente lo verifica, lo sottopone al restyling che sono sicuramente necessari, ma per raggiungere, per pianificare, per raggiungere gli obiettivi. Questo è il punto centrale. Vede, prima sentivo parlare di reclutamento, no? Che chiaramente ha dato fastidio. Qua è un retaggio sicuramente di 20-30 anni fa, è chiaro, il mercato era molto diverso, le reti erano reti di vendita sicuramente anche abbastanza aggressive, ci siamo passati un po' tutti, io sicuramente ho lavorato anche in quel periodo, però veda, nonostante quindi che si trattasse di argomentazioni più vicine alla vendita, quindi urta questa alla consulenza, urta però la suscettibilità, già da allora, perché già da allora, se siamo ancora sul mercato, se i risparmiatori continuano ad essere clienti di quei promotori finanziari, figli di quel modello di reti di vendita, è perché ci sono sempre, si è sempre ragionati una logica di lungo termine, una logica di pianificazione, una logica di raggiungimento di obiettivi. E qui, allora, secondo me il rapporto vero tra un professionista e il risparmiatore si consolida, diventa un vero rapporto nel momento in cui c'è un'apertura totale da parte del risparmiatore rispetto alle proprie esigenze, e dall'altro lato il professionista si riconosce nel momento in cui accompagna il risparmiatore nel raggiungimento di quegli obiettivi. Allora, volevo anche rispondere agli ascoltatori che ci stanno dicendo, in molti, facendoci vari esempi, ci dicono: io con il risparmio gestito ho perso il 20, il 30, il 40%, quindi ho cambiato. Allora, il promotore finanziario non fa il gestore, per cui vorrei anche un attimo poi fare delle precisazioni relativamente alla professionalità. Probabilmente il promotore ha suggerito dei prodotti sbagliati che hanno perso in termini appunto di rendimento. Giovanni dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno dottoressa Rosciani. Ci dica tutto. Io invece sono contrario ai promotori finanziari. Perché? Perché prima hanno da dire, perché io prima lavoravo con un private banking. Sì. Un private banker, sì, che sono quelli proprio che sta, adesso faccio arrabbiare di nuovo, reclutando Banca Fideuro, ma sto scherzando naturalmente, ma l'idea di formare queste professionalità. Giovanni, quindi? No, io avevo una gestione patrimoniale con una grossa banca italiana, mi hanno fatto perdere nel giro di 2 anni, l'avevo chiamata un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, mi avevano fatto perdere 500.000 euro. Si è fatto sotto uno della Fineco, un promotore, ma dai, portali da me che te li seguo io, te li gestisco io, vediamo, selezioniamo i titoli. Mi ha fatto smobilitare il portafoglio, mi ha inserito tante banche e perdo ancora altri 100.000 euro. Adesso è dal mese di luglio che non lo sento più e sto ritornando sui miei passi, che è meglio averli da una banca che decido io, faccio io e... Capito? Quindi sono tutti buoni e bravi quando devono acquisire il portafoglio clienti. Poi, una volta che hanno acquisito il portafoglio, lasciano nel tuo brodo e vada come vada. No, Giovanni, io chiaramente non ho nessun motivo di dubitare di quello che le è successo. Ha sentito però anche delle esperienze contrarie di persone che invece vengono seguite con assiduità, con costanza, e quindi io chiedo ad Antonello Piancastelli, è stata una questione di sfortuna secondo lei per quello che riguarda il caso di Giovanni? Perché adesso, a prescindere poi dalle reti, ha citato un'altra delle più grandi reti italiane, evidentemente è incampato in una professionalità molto, molto scarsa in questo senso. Quando voi fate il vostro corso, questo master, che tra l'altro è già iniziato credo da qualche giorno, insegnate anche ai futuri private banker che saranno nella vostra rete, così come potranno capitare anche in un'altra rete di consulenza finanziaria, alle modalità con cui vanno gestite le relazioni con il cliente, ogni quanto bisogna contattarlo, sentirlo e gestirlo direttamente? Perché ha ragione Giovanni, non è che si può solamente conquistare questo cliente poi, una volta che ti ha dato un mandato, sparire. Questo mi pare proprio una persona da depennare dall'albo. Poi lo chiedo anche al presidente. Ma sì, sicuramente il cuore dell'attività di un buon promotore finanziario, di un buon consulente finanziario, è la comprensione delle esigenze dei clienti. Le esigenze dei clienti cambiano, quindi bisogna essere sempre vicini ai propri clienti. Credo che l'ascoltatore sia stato un po' sfortunato, perché al di là della professionalità più o meno brillante dei singoli, che sono diversi come in tutte le professioni, l'attitudine alla relazione con il cliente è un tratto abbastanza distintivo dei promotori finanziari in generale. È difficile che si allontanino, perché contrariamente a una banca, un promotore finanziario i clienti non hanno barriere all'uscita quando hanno un rapporto con un promotore finanziario. Se lo vogliono cambiare, lo cambiano. La banca ha il vantaggio della prossimità, della fisicità, eccetera. Il promotore finanziario è un professionista individuale, per cui se non si coltiva i suoi clienti lo abbandonano. Quindi il cuore della professionalità è sicuramente la relazione con il cliente, la relazione professionale, la capacità di capire quali sono i suoi certo, bisogni. Però non è neanche Giovanni in questo caso che deve correre dietro al suo promotore, ecco, anche perché il promotore è stato molto fortunato a trovare un cliente al quale ha fatto perdere 500, ha fatto perdere, poi bisogna vedere insomma che prodotti, 500.000 euro è stato un bel investimento per il promotore, questo cliente. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, non è il cliente che deve correre dietro al promotore, è il grande vantaggio dei consulenti finanziari, è proprio quello che sono loro a curarsi degli interessi dei loro clienti, se fanno bene la professione. Per farla bene ci vogliono competenze sostanzialmente in tre aree, ci vogliono competenze tecnico-professionali, bisogna sapere di che cosa si parla, e ci vogliono competenze metodologiche, che è proprio saper pianificare, programmare la propria attività, saper far emergere le esigenze dei clienti, saper gestire la relazione. E poi ci vogliono competenze relazionali. Queste ultime sono le più difficili da insegnare, si possono affinare, ma sono dei tratti fondamentalmente personali. Le leggo questo messaggio, Piancastelli, perché è veramente emblematico. Io ringrazio tantissimo questo promotore che ce l'ha scritto. Caso singolare, dice: io sono un promotore, seguo due fratelli, entrambi sono appunto miei clienti, uno guadagna, l'altro no. Come mai? Uno non mi dice mai niente, le sue esigenze, le sue aspettative, l'altro invece sì, incredibile ma vero, e si arrabbia pure con il fratello, per cui anche noi dobbiamo imparare ad intavolare una trattativa costruttiva con il promotore, così se lui non ci dà i risultati che ci aspettiamo, a maggior ragione ci possiamo arrabbiare e cambiarlo soprattutto. E ancora, in molti ci chiedono, sì, fate un gran parlare, ma noi come facciamo a riconoscere uno bravo da uno non sfortunato, insomma, da uno meno competente? Presidente, Conti Nibali, che cosa le suggerisce tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, ascoltando anche le esperienze degli ascoltatori? Vedo anche altri due ascoltatori che vorrebbero intervenire, speriamo di farcela. Presidente Conti Nibali. Sì, mi suggerisce che il mondo è bello perché è vario, diciamo, e come al solito non è mai tutto bianco ma neanche tutto nero, le verità stanno sempre a metà. Io torno sempre a numeri, a dati, alle ricerche che dicono sempre qualcosa, in particolare rispetto al fatto che il promotore finanziario è vicino ai clienti, ai risparmiatori, non li abbandona, lo dicono le ricerche. Ce n'è una importantissima, soltanto di un anno fa, commissionata da Assoreti, e che è intervenuta proprio questa ricerca ragionando nel periodo più drammatico della crisi finanziaria, dove si evidenzia come i clienti dei promotori finanziari sono stati cercati, assistiti, contattati in maniera esponenzialmente maggiore rispetto a quella ai clienti di tutti gli altri canali distributivi. E allora qua significa che per definizione il promotore finanziario, come ha detto benissimo il dottor Piancastelli, sta accanto al risparmiatore, poi le eccezioni ci stanno e nessuno le nega. Detto questo, se mi è consentito, visto che siamo quasi alla fine della trasmissione, investire sulla formazione è fondamentale, lo è stato sempre, ma lo è assolutamente di più oggi. La MIFID, la figura del tied agent, il servizio di consulenza vanno in una direzione, non ci sono più scorciatoie, bisogna investire pesantemente sulla formazione. Esatto, rapido Presidente, perché devo bisogna chiudere, investire sì. pesantemente massicciamente sui giovani, è un'attività che ha un grandissimo futuro e che merita di essere valorizzata per essere una vera alternativa per menti brillanti, è un'attività che purtroppo io vedo che sta un po' invecchiando, bisogna lavorare molto sul ricambio. E allora speriamo che l'iniziativa di Banca Fideroma vada anche in questa direzione, anche come opportunità di lavoro, aspetto che non abbiamo secondo me sufficientemente enfatizzato. Molti ascoltatori chiedono di sollevare il problema dei guadagni dei promotori, io non lo sollevo perché dico, se fanno bene il loro lavoro è bene che anche guadagnino, l'importante importante che la clientela sia soddisfatta e serena soprattutto. Adesso le nostre parole della previdenza. INPS, per saperne di più. Allora, fino alla fine di febbraio, come sapete, c'è questa rubrica in collaborazione con l'INPS che ci spiega proprio le parole della previdenza, ce le spiega direttamente il presidente Antonio Mastrapasqua. La parola di oggi è l'importo pensione a superstiti. La percentuale di pensione spettante ai superstiti varia in base alla composizione del nucleo costituito dai familiari che hanno diritto ad una quota della reversibilità. Quando l'unico superstite è il coniuge, la percentuale riconosciuta di diritto al coniuge superstite è pari al 60% dell'importo della pensione spettante al dante causa. Tale importo, però, può non spettare per intero. Infatti, se il familiare superstite possiede altri redditi, la pensione viene ridotta di una determinata percentuale, in base alla consistenza di tali altri redditi. In ogni caso, non vengono considerati redditi determinanti per tale decurtazione i seguenti: trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni, reddito derivante dalla casa di proprietà del superstite, se egli la utilizza come abitazione principale, competenze soggetto a tassazione separata, la stessa pensione di reversibilità naturalmente e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato sia titolare. È tardissimo, devo subito andare in sigla ringraziando Antonello Piancastelli di Banca Fideuro, Amelio Continibale, presidente dell'ANASF, e noi ci risentiamo lunedì con Parmalat e Alitalia. Buon fine settimana a tutti.